Luponer Summersburgo. Episodio di Luponer Summersburgo, l'edizione estiva di Luponer, il nostro programma radio preferito, almeno il nostro, almeno quello di Vanni e Flamì. Vanni sono io e Flamì è quel ragazzo che va salutato all'inizio. Abbiamo appena ascoltato Ela Minus, che è il progetto musicale di Gabriela Jimeno Caldas, cantantessa colombiana che si è data molto da fare negli ultimi anni, almeno si è fatta notare nella scena internazionale con un paio di album, l'ultimo dei quali è questo Dia, da cui abbiamo ascoltato il brano Upwards. Ora passiamo a qualcosa di bello robusto, un po' meno delicatino, meno Sud America, meno femminile. Sono i Hild da Hultsfred, Svezia. Fanno black thrash metal con trascorsi nei Marduk. Lars Brodesson, infatti, il principale leader di questa band, da lì proviene. Hanno fatto un paio di album molto interessanti, l'ultimo dei quali è questo Trash Svenska, da cui ascoltiamo il brano Vigrid Visa Freun Veder Verdi, che vorrà di, non lo so, Hild. Jag lever själv Uno strospite di Silenzio in questo da rosa Smiri av lukt eller blick Genom till hjörnen och korparna Fienden till fäll Atomi har ett slut Atom till sin ska försvälla Gelaka väck Ska väck Allting som rör sig ska dö Lagen ska stå Är svett Segen läckor i ett minnat Gelaka väck Ska väck Allting som rör sig ska dö Ge slag för att spöra Till gering mun Slägger rikens spalten Låt en glömskan små Smaken av blodet är lusigen Sitt vatt i trevande tunga Den är utsmättad och fåsat När huvudet lämnat din kropp Atomi har ett slut Allt som ni ser ska försvälla Gelaka väck Ska väck Allting som rör sig ska dö Lagen ska stå En svett Segen läckor i ett minnat Gelaka väck Ska väck Allting som rör sig ska dö Solen är stor som kommer Så livet har lämnat ett skram Atomi har ett slut Allt som ni ser ska försvinna Gelaka väck Ska väck Allting som rör sig ska dö Lagen ska stå En svett Segen läckor i ett minnat Gelaka väck Ska väck Allting som rör sig ska dö Lupo on Air, Sammersburgo. Don't blame me. i Diruf da quanto tempo, da poco in realtà, perché sfornano un paio di album all'anno più o meno, hanno fatto veramente una quantità infinita di album, sono una band storica del noise rock do-it-yourself americano, vengono da San Francisco, sono formati dal 1994 e da allora veramente non riesco a contarli, 1, 2, 3, 4, facciamo 25 album, l'ultimo dei quali è Noble and Godlike in Ruin, da cui abbiamo ascoltato il brano Return of a Fire Trick Star, e si erano i D-Roof, e ora cambiamo tono dalla gioia e spensieratezza alla morte e morbosità, che quello che ci propone regolarmente Johan Van Roy in arte Suicide Commando dal Belgio, partito con cose industrial electro molto underground, adesso è arrivato ad essere una come dire, electrostar, perché rockstar non va bene, uno che riempie i palazzetti almeno per di locali, insomma, di popolati da pervertiti di europei, per lo più è una cosa per versione tutta europea. L'ultima uscita che ha fatto si intitola Final Stage, è un EP in cui riprende dei brani dal suo primo album Critical Stage, però sì, li aggiorna al suono suo di oggi, quindi ascoltiamo la versione odierna 2025, tra l'altro l'EP è uscito il 18 luglio, pochissimo fa, la versione insomma aggiornata di Necrophilia, un brano storico di Suicide Commando, sottotitolo Body to Body, perché ce lo spiegherà magari se risponde alla micro intervista. Suicide Commando, Necrophilia, Body to Body. force, pleasure, sex with the dead. Lupo Nair, Summer Spurgo. Solaris, chissà da dove mi sono arrivati questi Solaris. Fatto sta che mi sono ritrovato nel cassetto il disco e alla fine della storia non c'è alcuna redenzione, il titolo dell'album, di questa band di Cesena, e devo capire come mai ci è arrivato in questo cassetto. Comunque abbiamo ascoltato il brano Redenzione, e, chissà, forse volevano essere gli After Hours, non lo so, però sicuramente voleva essere a Sanremo, o invece è al Lido di Fermo, Blue 27, che è un giovanotto di Fermo, all'anagrafe Carlo Mancini, confessa lui stesso, classe 1998, si è dato da fare negli ultimi mesi, direi, quando ha pubblicato un album chiamato Cianotipia, e dopodiché il suo ufficio stampa ha cominciato a mandare dei singoletti in uscita costante, e ascoltiamo questo Lido di Fermo, Blue 27. Sai che occhi solo per te, ma non ho più occhi per me, per vedermi ancora così, ancora, ancora, ancora in lacrime, burro di carite, me lo hai lasciato qui, disteso esanime, come ogni venerdì, ma non bevo più. Se mi giuri che ritorni pure tu, se mi giuri che vediamo la TV, se mi giuri ancora che mi prendi pugni a schiaffi, ma non amare sbatti come quando lasciavo da lavare tutti i piatti da te. Ma ti giuro non bevo più. Gaffi, ma non ho mai lo sbatti come quando guarda l'ido di fermo, sembra l'ido del mondo. Solo quando sei intorno a me sembra un posto diverso. Guarda il mare, so bello. Mio papà dice non è lo stesso di quando era più piccolo, di quando era bambino. Questo posto ci ama, ma poi ci vuole morti. C'è chi in tasca c'ha un'arma e chi in tasca ricordi. Io né l'una né l'altra, non ne voglio di entrambi. Ci rivedremo in piazza tra quei posti di blocco. Ma no, no, no. Tra quei posti di blocco. Summerspurgo. Yeah. simpatici questi Magic Wands da Nashville, Tennessee. Da lì abitavano, poi sono partiti con la loro carovanetta di cammelli e sono arrivati a Los Angeles, California, sempre Stati Uniti, sempre un po' post-punk, dream pop e d'architettonismi vari, tant'è che ce li propone la Cleopatra Records. Hanno pubblicato adesso un singolo nuovo, anteprima di un album in uscita prossimamente. Il singolo si chiama Across the Water ed è questo che abbiamo ascoltato. Andiamo avanti che ci abbiamo. Gli Anathema, vi ricordate gli Anathema? Non esistono più, perché uno, c'è il frontman Vincent Cavanagh, che fondamentalmente è impazzito col Covid. È successo, molti sono malati, sono morti proprio del malanno, altri invece sono partiti di testa completamente. È il caso di Cavanagh, per cui gli Anathema non esistono più, ma quelli che erano rimasti, ossia il fratellone Daniel più un altro musicista, Daniel Cardoso, hanno messo su una nuova band chiamata Weather Systems, come uno degli ultimi album di maggior successo degli Anathema, e sono ripartiti con una nuova band. Hanno debuttato con un album intitolato Ocean Without the Shore, e da quest'album ascoltiamo il brano Do Angels Sing Like Rain? Punto interrogativo. Weather Systems. Underneath, singing me to sleep. Lupo Nero, Summersburgo. Queste sonorità darkettoniste arrivano da Londra, sono i Black Doldrums, erano i Black Doldrums, un duo fondamentalmente formato da Kevin Gibbard e Sophie Landers, più qualcun altro che gli porta la macchina e credo io sono la batteria. Hanno pubblicato un album non troppo tempo fa, chiamato In Limerence, e da questo album abbiamo ascoltato il brano Painting Smiles. Ora un po' di... questo non era abbastanza triste, siccome non era abbastanza triste adesso vi roviniamo completamente la giornata con un brano ambient, industrial ambient astratto, trattasi di addirittura si definisce Emotive Melodies Atmospheric Sonic Experience, quindi insomma statece. Talvekoidic è il nome del progetto musicale di Kai Hannewald, tedesco, già conosciuto per gli Skett, SKET, che è una roba molto più ritmica, diciamo. Qua invece siamo completamente nel rarefatto assoluto. Considerate che ci è stato consigliato da Spectra Negra. Cioè, quindi, che fai? Non ti fidi di Spectra Negra e non vai ad ascoltare Talve Koidic dal suo ultimo album Ambivalence, il brano Will I Love the World Someday? Altro punto interrogativo. sono penso 40 band musicali chiamate Burial, di queste 18 fanno metal e una di queste sono questi che abbiamo ascoltato adesso. Arrivano da Manchester, Regno Unito, se ne fanno, come avete sentito, questo black thrash metal, sono arrivati al quarto album, che si intitola, l'ultimo quarto si intitola Rejoice in Sin, e da quest'album abbiamo ascoltato il brano Putrid Grave, e sì, erano i Burial. E si conclude con questa sepoltura putrida il settimo episodio di Lupo Nero Sammersburgo. Ora ci salutiamo nella speranza di ascoltarci anche la prossima, anche se siamo a ridosso di Ferragosto, ma tanto io al mare non ci vado, che cazzo me ne frega, no? Quindi ce la faremo senz'altro al giovedì prossimo, quindi con la nuova puntata di Lupo Nero Sammersburgo, puntata numero 8. Per adesso vi lasciamo con il brano American Healthcare di Last Sick Puppy, che è un rapper violento, digital hardcore e effetti speciali. Vabbè, la Sick Puppy per Lupo Nero Sammersburgo. Guilty conscience leaves you blind. This is what you fucking wanted. Anger filling up the tanks full. I guess I should be thankful. I guess I should be grateful for losing your grip. I can barely break the walls that you built for me. Closing around me. How many chemicals do I research until I find what's wrong with me? How long to research chemicals and my friends are wanting me? Voices in my head sing to me in under harmony. Don't know how to let go, but holding on is hard indeed. I keep looking but I still can't find any answers. Don't know where to go, no. How many chemicals do I research until I find what's wrong with me? How long's the research chemicals and my brain's a part of me? They want the death of me, I am not your enemy. I am begging for empathy, but they want the death of me. Sammersburgo.